Pronto, Tiziana? Pronto. Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Grazie per essere qui al telefono. Tiziana, che lavoro fai? Sono impiegata. E lui che lavoro faceva? Lui era un agente di commercio nella ditta dove lavoravo. E da quanto lo conoscevi? Ma qualche anno, era un po' che lavorava con noi. Ed era la tipica brava persona? Sì, un uomo apparentemente senza macchia. Sì. Senti, che aveva famiglia, figli? Aveva moglie, una bimba, aveva anche la foto di sua figlia sul desktop del computer. Beh, quello lo immagino. Di dove sei, scusami, Tiziana? Di Modena. Sei di Modena, ok, perché dal desktop del computer un pochettino si era capito. Senti, com'è successo? Poi lui un giorno semplicemente non è venuto al lavoro? Si è licenziato dicendo che sarebbe andato a lavorare nell'edicola di suo fratello. Siamo andati tutti a cercarlo nell'edicola per andarlo a trovare e lui non c'era. Poi un bel giorno mi hanno chiamato dicendo: mi prendi il giornale perché il tuo collega si è costituito perché ha commesso un omicidio. Ma subito non ci credevamo, cioè pensavamo che fosse un omonimo perché era incredibile mm-hmm. la cosa. Mm-hmm. E invece era proprio lui. Quanti anni fa erano? Ma è successo 2 anni fa. Quindi lui è ancora in carcere? Sì, adesso 16 anni gli hanno dato. Wow. Sì. In carcere ascoltano la radio? Però non possono mandare messaggi. Peccato. Niente, Tiziana, ti ringrazio molto per il tuo racconto. Ti auguro una buona giornata. Ciao, alla prossima. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao.